Iran, gli attacchi misteriosi, Corea del Sud, il suicidio del sindaco di Seul e la questione di genere. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci. Mayor Park Won-soon, who was seen as a potential presidential hopeful, was found dead at around midnight Korea time. What exactly happened at the Natanz nuclear facility last week? It's a question people in Iran and around the world have been asking since a fire was reported. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, l'ultima per questa settimana di luglio. Con me ci sono sempre Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza c'è Laura Faggin e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, i due account da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Dicevo, domande e commenti su quali temi. Il primo, Iran, attacchi misteriosi, una lunga serie di strani incidenti sui quali aleggia una fitta coltre di mistero. Ci sono state rivendicazioni, non da ultimo l'attacco a una centrale di arricchimento dell'uranio nei dintorni di Teheran qualche giorno fa, ma è l'ultimo di una lunga serie che proveremo ad esplorare e analizzare per capire chi si cela dietro questa serie di attacchi. E poi in Corea del Sud, perché proprio ieri vi davamo notizia della scomparsa di Park Won-soon, sindaco amatissimo della capitale Seul, sul quale però si proietta un'ombra molto molto inquietante sia dal punto di vista politico che personale. Si sarebbe suicidato, è stato ritrovato un biglietto, peraltro lì sono state rivolte accuse da parte di un ex dipendente di molestie sessuali. Oggi cercheremo meglio di capire e raccontarvi quanto quel fenomeno sia ampiamente diffuso in Corea del Sud. 349-238-6666, dicevo, è la prima cosa da fare, come sempre, sfogliare i nostri dossier. Vi porto quindi a sbirciare qui sui tavoli della redazione di Nessun Luogo Lontano per scoprire quali sono i temi che stiamo seguendo e tenendo caldi anche per la settimana prossima di programmazione. Ieri abbiamo dedicato ampio spazio alle proteste che stanno avvenendo in Serbia, in particolare nella capitale Belgrado. Gli ultimissimi aggiornamenti: la manifestazione contro il presidente Vučić, che è avvenuta anche ieri sera, si è svolta in maniera assolutamente pacifica, senza gli scontri che avevano caratterizzato i due giorni precedenti e che vi avevamo raccontato, sia con le voci dal campo e le foto di Ed Gozel, sia con l'analisi, il grand'angolo di chi invece è più esperto e segue le grandi dinamiche della Serbia. C'è stato un qualche momento di tensione, ma gli stessi manifestanti hanno rintuzzato immediatamente quelle dinamiche e soprattutto hanno cercato di fronte al Parlamento di trovare posto in maniera molto molto icastica, direi. Si sono sedute a terra per dimostrare appunto che volevano allontanare qualsiasi tensione. Vi avevamo dato conto anche del fatto che alcuni facinorosi in abiti civili tentavano di gettare olio sul fuoco proprio tra i manifestanti, alimentare gli scontri. Ebbene, la terza notte di manifestazioni invece è andata, secondo l'intento degli organizzatori, evidentemente più che bene. Peraltro analoghe manifestazioni si sono svolte in altre città del paese. Questo, diciamo, è il primo capitolo che riguarda strettamente quella che è la situazione politica serba. Lo ricordo, l'accusa principale che viene rivolta a Vučić è sostanzialmente di essere diventato il padre padrone della Serbia con questa sua longa manus allungata soprattutto sui media. C'è un dossier scottante sul tavolo di Belgrado, ma anche su quello di Pristina, cioè la diatriba, la ferita mai rimarginata con il Kosovo. E in proposito, sapete che quest'oggi c'è stato una videoconferenza organizzata dal presidente francese Macron e dalla cancelliera tedesca Merkel, alla quale hanno preso parte lo stesso Vučić, ma anche il premier kosovaro Othi, oltre a Borrell, l'inviato speciale dell'Unione Europea per il Kosovo, eccetera. Di cosa si è discusso? Cercare di riaprire quel dialogo che era stato interrotto faticosamente, riaprire quel dialogo. diciamo, quello che è scaturito, che credo sia degno di nota, è che sostanzialmente l'Unione Europea è riuscita a sottrarre agli Stati Uniti la gestione di questo spinoso dossier. Sapete che anche c'è una procedura per l'ammissione della Serbia in Unione Europea, c'è quella proposta di spartizione di territori, di cambio di territori tra Serbia e Kosovo. Insomma, è quella zona dei Balcani è molto nevralgica e credo sia importante dal punto di vista europeo che questo dossier sia tornato in mano all'Unione Europea stessa. Non stupisce che sia stata la Francia, il presidente Macron, che su tanti dossier di politica estera sembra voler alzare la voce, in qualche modo trainare l'Unione Europea per farle recuperare un ruolo di politica estera che ultimamente, lo diciamo spesso, negli ultimi anni non è che si sia visto in maniera particolarmente visibile. E poi in Libia, perché arrivano notizie particolarmente inquietanti, nuovi scontri armati, e su questo direte voi nulla di nuovo. Questa volta però le violenze e gli scontri non riguardano le due fazioni che sapete si stanno scontrando ormai da oltre un anno: da una parte il generale Haftar, Bengasi, Cirenaica, dall'altra il governo di Sarraj e le sue milizie, riconosciuto dalle Nazioni Unite, supportato e corroborato dall'intervento turco. Il sito libico Libya Witness scrive che miliziani appartenenti a diversi gruppi alleati di Tripoli si sono scontrati per una disputa sul controllo di alcune stazioni di carburante. Siamo nel distretto di Janzur, a pochi chilometri a ovest della capitale. Peraltro gli scontri avvenuti anche a pochi chilometri dalla sede delle Nazioni della missione delle Nazioni Unite in territorio libico. Se confermata, non abbiamo motivi di dubitare, le fonti sono piuttosto autorevoli, sarebbe una spaccatura all'interno del fronte delle milizie di Tripoli che sicuramente farà venire qualche preoccupazione a Fayez al-Sarraj, che con grande fatica ha messo insieme una coalizione di tribù e di milizie ad esse collegati e sulla quale conta, ovviamente oltre al supporto delle Nazioni Unite, per quella che è la battaglia campale forse di questa lunga guerra, cioè quella per Sirte, e che mi sa che a breve, tra qualche giorno, saremo costretti a raccontarvi. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, il dossier iraniano è caldo e credo dai messaggi che vi interessi parecchio. Ci andremo tra pochissimo, non prima però di avervi dato conto di quella che è stata la presentazione da parte del candidato democratico negli Stati Uniti, Joe Biden, del suo piano di salvataggio dell'economia statunitense dopo gli esiti da coronavirus, economia paralizzata, lo sapete, dal Covid-19, con uno scotto che il paese dovrà pagare come tutti gli altri paesi del mondo nei prossimi mesi. Biden si è scagliato molto molto duramente contro l'amministrazione guidata da Donald Trump, ha detto che il presidente attuale è un incompetente e ha presentato un piano da 700 miliardi di dollari che sarebbe, se attuato, se Biden dovesse essere eletto, il più grande investimento nell'economia americana dalla seconda guerra mondiale. Secondo gli ideatori e secondo Biden si andrebbero a creare più di 5 milioni di posti di lavoro nel solo settore manifatturiero e tecnologico. Slogan chiave del nuovo piano è compra americano. Biden ha infatti proposto un aumento di 400 miliardi di spesa pubblica per i prodotti fabbricati negli Stati Uniti. Ovviamente la risposta di Trump è arrivata immediatamente. L'ufficio centrale della campagna elettorale di Trump ha detto che il programma è catastrofico. E infine l'ultimo dossier si arricchisce di un lancio d'agenzia di pochi minuti fa che arriva da Istanbul, la questione, la querella di Santa Sofia, ne abbiamo parlato proprio ieri, quella che nel 1934 Ataturk aveva destinato come museo, all'inizio era addirittura stata costruita come una basilica, simbolo della coabitazione, del sincretismo, della stratificazione della storia turca. Ebbene, sapete che Erdogan ha messo la quinta, vuole assolutamente che si riapra, che diventi una moschea. Il Consiglio di Stato turco ha ratificato quella decisione e quindi a breve potremmo vedere realizzato quello che a tutti gli effetti, secondo molti analisti, è un vero e proprio schiaffo di Erdogan alla cultura secolarizzata e alla cultura laica della Turchia. Vedremo con quali conseguenze. Questi nostri dossier internazionali, lo ricordo, sono fatti notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che ragionevolmente, ormai la settimana prossima, diventeranno nuove puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso con Roberta Frisani però andiamo a Seul. E andiamo Lasciamo Seul per darvi conto, ragguagli e ulteriori informazioni di quello che è stato l'inizio di un caso che è politico, personale, ma anche sociale e culturale. Tra poco capirete perché. Ieri vi avevamo dato notizia della scomparsa, macchina lasciata vicino a una zona appena fuori Seul, del sindaco appunto della capitale Park Won-sun, sindaco dello stesso partito di Moon Jae-in, fra l'altro molto molto apprezzato, una carriera politica probabilmente destinata anche alla candidatura alla presidenza. È costume, diciamo, politico che in Corea del Sud chi vada a guidare la capitale poi si candidi quasi automaticamente alla guida del paese. Un biglietto di scuse a tutte le persone che sono state nella mia vita è stato trovato a casa del sindaco, dicevo, Park Won-sun, era scomparso ieri sera dalla sua residenza, ritrovato poi cadavere alcune ore dopo a Mount Bugak, tra le montagne a nord della capitale sudcoreana. Soltanto l'autopsia ci dirà se si tratta di suicidio o se è stato un omicidio, ma il biglietto trovato probabilmente spiega quello che sarebbe stata una fuga dall'onta e dalla vergogna a cui sarebbe stato sottoposto al pubblico ludibrio. Perché? Perché aveva ricevuto accuse di molestie sessuali da parte di un ex dipendente. Che caso è questo? Non è semplicemente cronaca, è la prima domanda che giro immediatamente a Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta fra le altre cose di Corea, e ricordo la sua newsletter. Iscrivetevi se volete sapere qualcosa in più. A dispetto del nome Katane e a dispetto dell'area marziale e anche della pratica di Giulia, non parla di Kendo o di altre arti marziali, ma parla soprattutto di quei paesi apparentemente lontani. Giulia, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, che idea ti sei fatta di questo caso, Giulia Pompili? La tesi più sdoganata mi sembra paura dell'onta pubblica a cui sarebbe stato sottoposto e quindi il sindaco ha deciso di farla finita. Sì, stanno succedendo molte cose, soprattutto dal punto di vista sociale in Corea. Si sta evolvendo un movimento soprattutto guidato dalle donne che fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, non denunciavano nemmeno eventuali molestie, perché la maggior parte dei casi finiva così, con un insabbiamento, comunque senza essere perseguiti. Sta succedendo qualcosa su quel fronte contemporaneamente, e solamente un paio di mesi fa si è dimesso il sindaco di Busan, che è la seconda città praticamente sudcoreana, proprio per accuse di molestie sessuali da parte di sue collaboratrici. Ecco, in questo contesto un'accusa arrivata l'altro ieri sera e depositata proprio alla polizia l'altro ieri sera da un'ex collaboratrice di Park potrebbe essere la causa scatenante di un comportamento strano, perché appunto c'è stato qualcosa che ha fatto allontanare il sindaco da casa sua la mattina, lasciare il biglietto che il comune di Seul appunto ha diffuso stamattina. Quella cosa potrebbe essere questa denuncia. L'altro ieri lui aveva presentato alla stampa un nuovissimo progetto, un Green New Deal, proprio per la città e per gli ultimi due anni del suo mandato, che restava fino al 2021, dopodiché dopo tre mandati conseguiti non poteva più ricandidarsi a sindaco. Quindi una progettualità c'era anche dal punto di vista professionale, e la tesi più accreditata ovviamente è quella del suicidio. La Corea del Sud è tristemente nota proprio per il problema dei suicidi, come molti paesi asiatici. Di fronte al fallimento personale o professionale spesso si sceglie una strada che è quella del togliersi la vita. Però c'è molta politica dentro, appunto come hai detto Park è stato uno stretto collaboratore, hanno fatto l'università insieme con Moon Jae-in, l'attuale presidente sudcoreano. Un democratico, addirittura nel 2011 quando si è candidato alle elezioni la prima volta da sindaco non era dentro al Partito Democratico, ma tutti i partiti, si è candidato come indipendente, ma tutti i partiti della sinistra lo hanno appoggiato, perché è sempre stata una figura molto carismatica, un ex avvocato dei diritti umani, molto attento alle questioni delle differenze sociali. Quest'anno l'abbiamo visto con Parasite, il film che ha vinto l'Oscar. Diciamo, è un problema serio quello della diseguaglianza in Corea del Sud, e lui è sempre stato molto attento a certi temi. Dunque sembra un po' strano che poi avesse personalmente così un atteggiamento arrogante nei confronti delle donne. Le accuse sono state presentate l'altro ieri sera, quindi non sappiamo ancora niente delle indagini, credo non siano ancora nemmeno partite, però se fossero vere sarebbe una macchia impossibile da cancellare per un uomo così. Se non fossero vere, comunque sarebbe una manovra probabilmente per allontanarlo dalla politica. E se fosse vero, se fossero veri i sospetti che Giulia Pompili ci racconta, che aleggiano ancora sulla morte, una qualche macchinazione politica per andare a macchiare quella che è la, per il momento, fino a quel momento, fino a poco ore fa, una fulgida carriera, quella del sindaco di Seul, insomma, sarebbe da rabbrividire. Infatti un ascoltatore, Giulia, ci scrive: una denuncia per molestie, tutta da verificare, basta distruggere la carriera di un uomo. Così un ascoltatore che esprime tutto il suo sconforto. Hai citato il movimento che raccoglie soprattutto donne in Corea del Sud, che da qualche anno si fa sentire, una sorta di un Me Too che ha varcato i confini ed è arrivato anche a Seul. Qualche tempo fa un canale YouTube che è molto utilizzato in Corea del Sud come canale di informazione, Asian Boss, aveva raccolto una serie di testimonianze. Proviamo a far sentire la voce di queste donne. Ci sono molti problemi riguardo alla sicurezza delle donne in Corea, per cui le donne sono molto arrabbiate. E tutto dipende da come la polizia gestisce la cosa. Anche quando la donna sporge denuncia, non segue una vera e propria indagine. Si limitano a dire: torni, se dovesse risuccedere. Quando veniamo infastidite o aggredite in metro o sul bus, non succede mai nulla agli uomini che lo fanno. Se devo essere onesta, non so mai cosa fare quando succede a me, quindi non faccio nulla. Queste alcune delle, a questo punto, non più rarissime testimonianze che sono scaturite da un lavoro, un canale YouTube di informazione, si chiama Asian Boss. I numeri che arrivano dalla Corea del Sud sono particolarmente drammatici. Secondo le statistiche nazionali, il 64,5% delle donne ha il timore di subire molestie e aggressioni quando sono soli in taxi o in un bagno pubblico. Nel 2017 denunciati oltre 279.000 casi di violenze domestiche. Complessivamente, tra il 2013 e il 2017, registrati più di 1,16 milioni di casi, ma solo nel 13% si è arrivati a un arresto. E potrei continuare con numeri inquietanti che gettano un'ombra su questo paese, spesso portato e celebrato come grande alfiere della modernità, come grande contrappasso a Pyongyang, la Corea del Nord. Esiste un problema culturale, Giulia Pompili, culturale, sociale, dal quale la Corea del Sud non riesce a liberarsi. Com'è possibile? Faccio un esempio. L'anno scorso una questione di cui ci siamo occupati poco, purtroppo perché veniva da molto lontano e perché è complessissimo da raccontare, ma l'anno scorso d'estate, primavera e estate, ci sono state manifestazioni con milioni di persone scese in piazza contro le spy cam. In Corea spesso nei bagni pubblici si trova il cartello, entrando nei bagni pubblici si trova il cartello: questo bagno, quelli delle donne ovviamente, questo bagno è stato bonificato dalle spy cam, che sono queste micro telecamere che si mettono per spiare le donne quando sono in momenti intimi, diciamo così. Ecco, in Corea del Sud c'è un business incredibile di questi video, tante persone denunciano di essere state riprese magari sulla metropolitana quando salgono le scale mobili sotto le gonne. Tutto questo ha portato però, dopo vari scandali, a una presa di coscienza e a una criminalizzazione che è solamente recentissima di riprendere le donne di nascosto e poi mettere certi video su internet. Sì. Questo dà l'idea di quanto sia problematico il rapporto tra uomo e donna all'interno. L'abbiamo visto anche con il successo incredibile del libro di Han Kang, la vegetariana. Anche lei, scrittrice sudcoreana, che racconta questo rapporto con il marito difficilissimo, in cui lei non può prendere, ha difficoltà anche a prendere una decisione per noi piuttosto banale come quella di diventare vegetariana. Sì. Ecco, tutto questo fa parte della società sudcoreana, nonostante l'evoluzione estrema e tecnologica, è ancora un passo indietro rispetto a quello che noi chiamiamo il nostro MeToo, insomma il movimento femminista occidentale. Lì c'è una presa di coscienza, ma è ancora difficile poi arrivare a spiegare tutto il contesto. Sì, anche perché la presa di coscienza è piuttosto acerba, soprattutto se andiamo a vedere i dati che riguardano la popolazione maschile. Cito la CNN, che a sua volta citava un sondaggio realizzato da Real Matter. Nel 2018, un campione di 1000 adulti sudcoreani, il 76% dei ventenni maschi e il 66% dei trentenni sono contrari al femminismo. Il 66% degli intervistati tra i ventenni ha dichiarato che le tematiche di genere rappresentano una delle più pericolose cause di conflitto nel paese, e questo sicuramente è un problema. Con Giulia Pompili, giornalista, esperta di Corea, la potete leggere sul Foglio, potete iscrivervi alla sua newsletter Katane, stiamo cercando di meglio indagare questo sicuramente questa piaga, questo problema, che ha il suo risvolto immediato su intanto pochissime denunce da parte delle donne che vengono molestate, e poi ha avuto questo risvolto politico con il suicidio. Per adesso dobbiamo parlare di suicidio, secondo gli inquirenti è l'ipotesi più accreditata, del sindaco Pak, un sindaco che probabilmente era avviato anche una fulgida, folgorante carriera politica. Ti proporrei, Giulia, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse, e poi l'ultima domanda, complice una questione che arriva da un ascoltatore che credo arricchisca molto molto bene la discussione. Vuole sapere per esempio come è valutata, se è accettata o meno l'omosessualità in Corea del Sud. Piccola pausa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano trae spunto da un episodio di cronaca pur gravissimo, ma che nasconde un problema ancora più inquietante. Ieri è stato ritrovato il corpo del sindaco di Seul, Pak, poi è stato ritrovato un biglietto, era scomparso alcune ore prima, in cui chiede scusa a tutti. Poche ore prima era stata depositata l'accusa di un ex dipendente che appunto denunciava molestie sessuali, un problema che affligge la Sud Corea. Vi faccio sentire brevemente la voce anche di Lee Jeon-ok, che è la presidente di un gruppo coreano di donne che fa sostanzialmente advocacy, cioè cerca di portare a galla questo problema e sensibilizzare in tutte le sedi possibili. Sentite cosa dice. Una gerarchia molto rigida rende difficile per le donne far sentire la loro voce. Per loro è difficile dire di no, perché ci potrebbero essere delle conseguenze sul piano delle condizioni di lavoro e della carriera. La posizione delle donne nel mercato del lavoro è molto vulnerabile. E torno alla voce di Giulia Pompili, che è giornalista del Foglio, esperta di Corea, ma in generale di est asiatico. Giulia, quella domanda che riguardava l'atteggiamento della società sudcoreana rispetto all'omosessualità, dacci un quadro, aiutaci a capire meglio come viene accettata, se viene accettata. Avrete capito, la società sudcoreana è una società molto conservatrice, soprattutto per le lobby religiose che ci sono, tantissime sette e religioni di ispirazione cattolica hanno potere anche politico, lo dimostra il fatto che perfino Moon Jae-in, che insomma doveva essere nel 2017 il grande alfiere della democratizzazione e del progressismo in Corea del Sud, non si è mai espresso sulle coppie omosessuali per questo è stato molto accusato. Sì. C'è, secondo me, negli ultimi anni una parte del paese, soprattutto quella più giovane, in alcune aree di Seul, che sono proprio quelle universitarie più frequentate dai ragazzini che ballano e cantano, c'è un atteggiamento completamente diverso rispetto, come se il paese fosse proprio spaccato su certi temi. Sì. E l'abbiamo visto durante la pandemia, quando sono stati riaperti alcuni locali, e in una delle zone più frequentate dagli omosessuali a Seul si era diffuso il coronavirus, e tanti media hanno preso una posizione seria su questo, dicendo non è indicativo il fatto che fossero dei locali frequentati da omosessuali il fatto che ci siano stati dei focolai. Sì. Quindi diciamo anche qui il tema si sta evolvendo in maniera veloce e in maniera più positiva anche per questo progressismo di cui stavamo parlando, ma è un dibattito ancora molto acerbo. Grazie mille Giulia Pompili, come sempre chirurgica, riesce ad affettare quasi come sapientemente i colpi della sua katana, anzi no, ogni argomento come le sue katane, la newsletter. Grazie mille Giulia, giornalista del Foglio, buona giornata, alla prossima. Prima di chiudere questo capitolo, tutto dedicato alla società sudcoreana, qualche messaggio che arriva al 349-238-6666 cita il K-pop. Anche quell'ambiente, quello sfavillante fatto di musica che ha anche superato i confini, è stata sdoganata ormai da qualche anno, purtroppo è afflitto da questa piaga, sentite. Mary made. Lo scintillante e patinato mondo del K-pop coreano ha un lato oscuro fatto di abusi, violenze e suicidi che periodicamente torna alla luce sulle pagine della cronaca nera e giudiziaria. Due star del K-pop sono state dichiarate colpevoli di stupro di gruppo. Il Tribunale della Corea del Sud ha dichiarato Ju Jun Yang a 6 anni di prigione. Nel novembre 2019 il cantante Jong Jung-yong e il musicista Choi Jong-hoon sono stati condannati rispettivamente a 6 e 5 anni di carcere per diversi casi di violenze e stupri ai danni di donne stordite dall'alcol e incapaci di reagire. Jong è stato giudicato colpevole anche di aver diffuso in chat le immagini delle violenze riprese con microcamere nascoste. Secondo il giudice, il cantante considerava le sue vittime come puri oggetti di piacere. L'indagine sui due giovani musicisti ha preso il via nell'ambito di un'altra inchiesta che ha coinvolto la star del K-pop Sung-ni, accusato di aver fornito servizi sessuali a investitori stranieri della sua società. L'indagine ruotava attorno al Burning Sun, un nightclub nel cuore di Seoul, fondato dallo stesso Sung-ni, dove, secondo la polizia di Seoul, si sarebbero consumati stupri e violenze, ma anche tentativi di corruzione e traffico di droga. Nello stesso periodo, tra ottobre e novembre 2019, le cronache del K-pop coreano hanno registrato il suicidio di due giovani performer, Solly, 25 anni, e Gu-hara, 28 anni. Entrambe per mesi erano state vittime di cyberbullismo e di violenti attacchi online da parte di migliaia di haters che criticavano il loro aspetto e i loro comportamenti, come ad esempio la scelta di Solly di non indossare il reggiseno. Per questo motivo la giovane cantante è stata bersagliata da violenti insulti. Secondo la giornalista Gang Ryon, il suicidio di Solly ricorda ai coreani la misoginia ancora imperante nel paese contro le donne non convenzionali che hanno il coraggio di essere irriverenti. Un mondo lontano anni luce dai profili Instagram colorati e dalla musica accattivante. Questa è la nostra lunga pagina dedicata al probabile suicidio del sindaco di Seoul, Park. Adesso invece voglio aprire tutta un'altra pagina che è veramente tinta di mistero, a partire dalla rivendicazione di un'esplosione che il 2 luglio scorso, poco più di una settimana fa, ha devastato una fabbrica che assemblava centrifughe nucleari a Natanz. Siamo in Iran, l'ultima serie, una lunghissima serie di attacchi, e quindi con Roberta Frisani e la giusta sonorità a questo punto andiamo a Teheran. Eh sì, perché anche l'Iran sforna pezzi metal notevoli. Farshid Arabi ha tenuto ben 4 concerti nella capitale iraniana. Non è facilissimo, eh? Per chi si è avventurato in questo genere musicale sono fioccate le accuse di satanismo. A proposito di satanismo, c'è una nazione, c'è uno stato, un nemico che è il male assoluto, è Satana molto spesso. La dirigenza religiosa, ma anche quella politica, soprattutto quella religiosa, ha bollato Israele proprio come Satana. Buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, esperto di terrorismo, che ha pubblicato una fantastica ricapitolazione di tutti questi strani attacchi, diciamo strani, ma la mano di israeliana evidentemente c'è. Buongiorno Guido, ben ritrovato qui a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, intanto il tuo pezzo, lo trovate anche su Corriere.it, è pregevole, lasciati dire, perché si legge, sembra la sceneggiatura di un film, con una serie di attacchi che addirittura risalgono ormai agli anni 80. L'ultimo però sembra particolarmente inquietante, a partire dalle dichiarazioni proprio di Teheran, perché secondo quanto scrivi il regime ha confermato che c'è stata questa esplosione che ha devastato questo impianto, ma ha detto: sappiamo cosa è accaduto, non lo riveliamo per motivi di sicurezza. E poi si parla e riporti di questa rivendicazione dei ghepardi della madrepatria. Aiutaci a capire meglio chi sono questi ghepardi della madrepatria che attaccano le centrali nucleari iraniane, Guido. Allora, il fatto interessante qual è? Che già in passato ci sono stati episodi misteriosi, l'hai ricordato, però questa volta il regime ha confermato che è avvenuto qualche cosa, che ha fatto anche capire che è qualcosa di sinistro, cioè non un incidente, ma una mano esterna. Sì. Poi cosa sia successo, se è stata una bomba, come scrivono alcuni giornali americani che citano fonti dell'intelligence, o un raid aereo, come sostengono esperti, che sono basati sull'analisi delle foto satellitari, una ricerca quasi davanti a tutti, sotto gli occhi di tutti. Bene, il punto è che qualcosa è accaduto. E c'è stata poi questa rivendicazione di questi ghepardi, gruppo sconosciuto, mai sentito, e l'ipotesi sono due. I ghepardi sono la firma del gruppo, dell'uomo, delle persone che hanno piazzato una bomba all'interno, oppure sono un depistaggio per non far capire chi è stato a compiere l'azione. Ovviamente i sospetti vanno tutti su Israele, Israele in questi casi non rivendica, rimane vago, è una sua strategia, è quella di lasciar credere che può essere stato chi è che l'abbia fatto veramente o che non l'abbia fatto, e fa parte di questa, noi l'abbiamo definita, guerra sotterranea. Sì. La voce, l'analisi e il commento di Guido Limpio, per tornare un po' indietro nella storia, addirittura fino al 1981, una serie di attacchi che sono andati a colpire nel cuore il regime di Teheran. La firma è una di quelle, non so se vi ricordate, io ricordo da, sorriderete gentili ascoltatori e ascoltatrici, manuale delle giovani marmotte, come creare l'inchiostro simpatico, acqua e limone, fai la tua firma, la firma è assolutamente invisibile, metti la carta contro luce, una lume di una candela fa scaturire la firma. È quello che stiamo cercando di fare con Guido Olimpio, la firma con inchiostro simpatico, mica tanto, per gli ayatollah sarebbe quella di Israele. Piccola pausa, andiamo a sentire la viabilità, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, non certo per importanza, stiamo cercando di capire chi si celi dietro una serie incredibile di attacchi, tutti rivolti al cuore nucleare, passatemi il termine, di Teheran. Siamo quindi in Iran per capire chi abbia firmato l'ultimo attacco, un'esplosione che ha devastato un deposito dove si assemblavano centrifughe nucleari, era il 2 luglio del 2020, il luogo è Natanz, appunto in Iran. Un ascoltatore fa una domanda molto interessante e chiedo a Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, esperto di terrorismo, di darmi una mano per dare una risposta. Gli attacchi Stuxnet o Stuxnet, adesso la pronuncia francamente forse all'americana Stuxnet, comunque era un virus informatico che ormai ha qualche anno, erano molto sofisticati, questi virus erano sostanzialmente cyberattacchi proprio alle centrali nucleari iraniane, virus che fu creato da una joint venture, mettiamola così, tra israeliani e statunitensi. Dicevo, l'ascoltatore chiede, questi attacchi erano molto sofisticati, un incendio non è troppo rozzo di breve termine, sarà davvero un attentato oppure si giustifica il prendere tempo per non abbandonare davvero il patto sul nucleare? Guido Limpio, una sorta di autoalibi interno che il regime è riuscito a costruire, ti sembra un po' troppo macchinosa come spiegazione? Allora, questa è una delle tante tesi. L'aspetto affascinante di queste vicende è che si potrebbero scrivere 10 articoli, ognuno con un finale diverso. Sì. Certamente c'è un sospetto, però qui parliamo di una serie di episodi. Mm. Credo che siano tutti collegati, ma comunque la percezione, ed oggi lo sappiamo, la percezione conta molto, è quella di un paese sotto attacco, di un paese che viene colpito in centri nevralgici, nucleari, ma anche impianti petroliferi, centrali elettriche. Insomma, l'idea è che il nemico sta lavorando, e sta lavorando contro gli Ayatollah. È chiaro che è stato usato in passato anche appunto lo Stuxnet, questo virus che ha funzionato, anche sì. In questo caso è ipotizzato l'uso di un'operazione cyber, però ripeto, non ci sono tutti i dettagli di questo e non abbiamo le conferme. Sì. Ripeto, ognuno può raccontare la sua verità, e qui è, diciamo tra virgolette, il bello, ognuno prende la sua verità e c'è una narrazione, certo. Ma la stessa narrazione fa parte della battaglia, e lo capite anche voi. Certo, e qua Guido Limpio ci racconta un tratto estremamente seducente di questa guerra, come l'ha chiamata lui, sotterranea. Da un lato abbiamo un attore poco trasparente di suo, che è il regime iraniano, dall'altra parte abbiamo un attore certamente più democratico, ma che su queste operazioni non è affatto trasparente e continua a giocare su questa strana ambiguità che Guido Limpio ricordava prima. Mai una rivendicazione chiara, diretta e precisa. Qual è però il vantaggio di non firmare platealmente, palesemente, azioni così efficaci, quando abbiamo da un lato l'Ayatollah Khamenei che dice Israele è il Satana del mondo, dall'altra parte una risposta efficace con la firma della Stella di David? Beh, non sarebbe una risposta altrettanto plastica ed efficace? Perché questa scelta da parte di Israele? Allora, in passato diciamo che questo aspetto della non rivendicazione era più forte perché avevamo meno dati. E questo lasciava una sorta di confusione, e lasciava anche confusione in campo avversario, ossia se succedeva qualche cosa, l'avversario, in questo caso l'Iran, la Siria o l'Iraq, dovevano cercare di capire: è stato un sabotaggio, è stato un incidente, è stato un agente esterno o un agente interno. Quindi c'era anche un gioco tattico, se vogliamo. Certo. Oggi è diverso perché c'è la necessità da parte di Israele di mandare un messaggio, secondo quello che dicono molti analisti, facendoli capire: noi stiamo colpendo e colpiremo ancora. Quindi questo, diciamo così, è un passo successivo di questa strategia della non rivendicazione. E spesso, e questo vale anche per dei raid israeliani in Siria, ci sono delle allusioni. E delle volte io ritengo che non sono coinvolti gli israeliani, ma preferiscono che le persone nell'arena creda a questo, perché in queste zone, in Medio Oriente, l'uso della forza conta, ha un suo peso politico e anche militare, e anche immagine. Quindi, ripeto, fa gioco lasciare così l'idea che sia stato Israele, ripeto, quando c'è stato e quando non è stato. E poi è chiaro che siamo in un terreno estremamente fumoso, che oggi si combatte, come dicevo, su social, no? Sì, sì. Voi vedete che alcune notizie vengono diffuse dalle fonti ufficiali, ma poi su Twitter e su Facebook comunque ci sono decine di esperti che prendono le immagini, le studiano e danno la loro interpretazione, aggiungendo altre verità. Quindi le versioni ufficiali contano fino a un certo punto. Ed è interessante perché a questa strana narrativa così profondamente fumosa ma allo stesso tempo elastica, che si presta ad aggiunte, letture, interpretazioni e anche strumentalizzazioni, forse è la tesi che ci propone Guido Limpio, diventa essa stessa parte di questa guerra sotterranea. Io ringrazio tantissimo Guido Limpio, peraltro ricordo il suo ultimo libro, almeno credo che sia l'ultimo, Guido, non vorrei fare una gaffa, Terrorismi, ce l'ho sempre lì sulla mia scrivania, che è un'utilissima guida per orientarsi su tutti questi temi. Lo ricordo, Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, grazie mille per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, 349-238-6666, ci sono un paio di ascoltatori che ribadiscono quello che dovrebbe essere invece, a loro parere, l'atteggiamento di Israele, cioè pestare duro su Teheran, perché non esiste, scrivono, che uno Stato dica che Israele, un altro Stato, debba essere cancellato dalla faccia della terra. Torneremo su questi aspetti, su questi temi, perché come dire, a sentire la voce di Guido Limpio, quella lunga serie di attacchi, di misteriose esplosioni, sicuramente non è terminata e sicuramente la cronaca ce ne consegnerà, scusatemi, tante altre. A questo punto, 16:54, quasi 54 secondi, una parola sola. Con la quale chiedo il commiato da voi ascoltatori, non senza ringraziarvi, un ringraziamento anche a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani ore 10 col meglio di Nessun Luogo e poi lunedì alle 16 di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.